Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Francesco Frangipane, regista del film Dall'alto di una fredda torre, al cinema da giovedì 13 giugno 2024. Ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a tutti. Cosa hai raccontato? C'è un pregresso, nel senso che questo film è la prosecuzione naturale di uno spettacolo che ho fatto nel 2015. All'Argot faceva parte di una trilogia scritta da Filippo Gili e questo secondo capitolo, appunto, Dall'alto di una fredda torre, da quando l'ho fatto ho avuto sempre la voglia, il pensiero di farlo diventare un film. E come si sono create le condizioni per farlo, io mi sono lanciato, perché è una storia che mi affascina molto, come un po' tutto il percorso fatto in questi anni con le drammaturgie di Gili. Sono drammaturgie dove andiamo a scandagliare tutta una serie di dinamiche che scatenano intorno al nucleo familiare delle situazioni sempre al limite, perché parliamo proprio di vere e proprie tragedie contemporanee. In questo caso di una famiglia, genitori, due figli, due fratelli gemelli, che vengono a sapere che i genitori sono affetti tutti e due da una malattia importante e degenerativa e si possono salvare solo attraverso un trapianto. Caso vuole che solo uno dei due figli si può sottoporre a un trapianto e si può sottoporre a un solo trapianto per delle tempistiche, e quindi si ritrovano nella condizione, i due fratelli, di dover scegliere chi salvare o meglio, a quel punto, chi uccidere. Come nasce tutto? Proprio dallo spettacolo, ma più che dallo spettacolo, da anni di collaborazione di un gruppo artistico con cui ho fatto tante cose, che quindi è l'autore che dicevo prima, Vanessa Scalera, Massimiliano Benvenuto, Giorgio Colangeli, un gruppo con cui abbiamo condiviso tante esperienze teatrali insieme, tra cui questa, è l'idea di passare al cinema portando avanti un po' l'anima, il gruppo con cui ho lavorato in questi anni, mi sembrava l'occasione perfetta. Com'è stato il passaggio dalla scena all'immagine filmata? Assolutamente naturale, anche perché questa testa ha avuto un processo contrario, perché il testo teatrale nasce già da una sceneggiatura che Gili aveva scritto e che poi lavorandoci insieme abbiamo trasportato al teatro e poi a sua volta poi abbiamo riportato al cinema, quindi non è proprio un impianto teatrale portato al cinema, ma c'è proprio il doppio passaggio. Dal cinema ce lo siamo portati in casa al teatro e poi riconvertito al cinema. E quindi è naturale, perché quando c'è, a mio parere, una grande storia, non c'è lo spauracchio dell'impianto teatrale, che nel film è completamente cancellato, perché è una storia a tutti gli effetti ambientata in una cittadina di provincia, nel nostro caso Gubbio, dove queste due anime naturalmente non vivono chiuse nei loro microambienti, ma anche all'esterno, isolate dal mondo, perché chiusi in una bolla, perché questa notizia ferale li isola dal mondo in qualche modo. Su quali elementi di questa vicenda avete voluto porre l'accento? Principalmente il tema della scelta, perché poi alla fine tutta la drammaturgia e la sceneggiatura verte su quello, con degli stratagemmi, anche con delle piccole forzature drammaturgiche, partendo dal famoso gioco che in maniera anche cattiva vengono sottoposti i bambini chiedendogli sistematicamente a chi vuoi più bene, a mamma o papà. Partendo da quel gioco l'abbiamo portato alle estreme conseguenze e si è costruito una drammaturgia che ci permette di lavorare sul tema della scelta, su come si fa a scegliere tra il papà e la mamma. Cioè parti da dei parametri magari oggettivi, ma quando quei parametri oggettivi tipo l'età, la salute ti pareggiano, cosa devi fare? Devi andare più a fondo, allora ti devi veramente chiedere a chi vuoi più bene. E quindi come se ne esce? C'è una risposta? Forse non c'è. E infatti il senso del film è quello di non dare una risposta, o meglio, alla fine la scelta che fanno i due protagonisti è la scelta loro, ma l'obiettivo è la speranza che ogni spettatore vada via portandosi dietro quella stessa domanda. Com'è stato il lavoro, le dinamiche di lavoro con questa squadra affiatata? bellissima perché ho avuto la fortuna di esordire con degli attori pazzeschi. L'unico con cui non avevo lavorato era Edoardo Pesce, che naturalmente è un attore di grande talento che è entrato un po' nel nostro mondo, perché Colangeli, la Bonaiuto e Vanessa naturalmente facciamo parte più o meno dello stesso modo di concepire il lavoro, il teatro, la qualità del lavoro che facciamo insieme. Ed è stato bello perché comunque abbiamo lavorato molto a tavolino all'inizio, con la famiglia, anche con gli altri due personaggi, che sono Elena Radonicic e Massimiliano Benvenuto, che sono i due medici all'interno di questa storia. E poi ci siamo ritrovati sul set, ma in maniera molto naturale, e si è creata veramente un rapporto familiare autentico. Cioè, Pesce e La Scalera, che nel film sono due gemelli eterozigoti, vedendo il film ho sempre la sensazione che lo siano, anche se non si assomigliano proprio, che sono andati a toccare delle corde che li lega profondamente. Che distribuzione sarà? In quante sale? Dovrebbero essere intorno alle 120 copie. Il film è prodotto e distribuito da Lucky Red. Ci auguriamo, nonostante l'uscita sia un periodo un po' difficile per il cinema, alle porte dell'estate, però ci auguriamo, insomma, di resistere il più possibile. Il film Dall'alto di una fredda torre al cinema da giovedì 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Frangipane. Alla prossima! Grazie a te, Federico. Con Samuele Rossi, regista del documentario Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, al cinema da giovedì 13 giugno 2024, ben trovato. Ciao a tutti. Raccontaci di questo lavoro. È un lavoro che parte da lontano, addirittura da fine 2020, corrisponde a qualcosa che mi sembra in qualche modo volessi sempre fare. C'è tanto del mio percorso umano, prima che professionale, c'è tanto della mia storia familiare, c'è tanto anche di una necessità di scoprire un po' uno sguardo, che è poi quello di Enrico Berlinguer, che mi sembrava particolarmente importante e attuale farlo oggi, soprattutto per generazioni, incluso anche la mia, visto che io sono nato nell'84, che quella pagina politica, che quella storia politica di Enrico, come in generale di tutto quel mondo politico, non l'ha vissuto. E quindi recuperarlo e provare a creare un grande racconto, poi nello specifico degli ultimi giorni di Berlinguer, mi sembrava fosse un gesto necessario oltre che prezioso, e quindi l'abbiamo lungamente inseguito perché era, insomma, un'impresa non facile sotto tanti aspetti, e ragion per cui era giusto cominciare appunto oltre 3 anni fa. L'idea iniziale com'era venuta? Perché impegnarsi in questo progetto? Per tante ragioni diverse, perché vivo da qualche modo, mi parlo, forse da cittadino, da uomo che vive il proprio tempo, insomma, mi sembra di vivere a volte una mancanza di riferimenti, una mancanza anche di guide, di persone alle quali affidare una lettura più ampia del proprio spazio civile, del proprio spazio sociale, e in qualche modo nei vari studi ovviamente fatti, nelle letture, nelle visioni, negli anni, ho maturato una sorta di consonanza con una storia politica che è quella di Enrico Berlinguer, che mi sembrava importante, appunto, come dicevo prima, rispetto ad un'assenza di oggi, che in qualche modo quella visione mi sembra possa colmare. In più ho riscontrato proprio nelle nuove generazioni, che hanno sicuramente altri valori, io lavoro spesso con i più giovani e non è vero che ovviamente sono generazioni vuote, anzi tutt'altro, è ovvio che quella ricerca e quel bisogno delle nuove generazioni di andare incontro a un futuro, a nuovi orizzonti, deve in qualche modo radicarsi anche in prospettive che abitano il passato. Ecco, in questo modo mi sembrava che parlare oggi di Berlinguer potesse essere un modo anche per agganciarsi a una visione che è più propria delle nuove generazioni. E in ultimo, in quegli ultimi giorni, perché il documentario in questo è molto radicale, inizia con il malore di Berlinguer a Padova e finisce praticamente con la giornata dei grandi funerali a Roma, ed è tutto racchiuso in quei 7 giorni, mi sembrava che in quella fine, in quelle giornate, risuonassero più lutti, no? C'era un po' la fine di una certa sinistra che dall'in poi inizia a smarrire il proprio percorso, c'era l'idea anche della fine di una comunità più ampia, intesa come comunità nazionale, che aveva sicuramente altri valori e che dall'in poi inizia, no? Poi arriva un altro periodo, un'altra fase, gli anni 80, con gli anni 90, ecco, lì inizia un po' quel percorso di disgregazione che porta anche in quel caso a una fine di un'epoca che poi è la fine più grande, ed è quella che forse ho cercato di raccontare. In quell'84, in quelle giornate, sembra proprio finire una fase molto lunga che forse era cominciata con la morte di Moro e con la morte di Berlinguer trova la sua definitiva chiusura, ecco. E quindi quelle giornate in qualche modo diventano, no, un ritratto, un punto d'osservazione privilegiato per leggere più cose. Come hai deciso di strutturarlo? L'ho strutturato da questo punto di vista seguendo esattamente la cronologia delle sette giornate. E questa non è stata una decisione di comodo o di semplificazione, perché la mia idea è partita nella volontà di mettere insieme il linguaggio finzionale, che spesso ovviamente anche nel documentario ho approfondito, e il linguaggio del documentario. Perché finzionale? Nel senso che volevo restituire un racconto, e quindi non solo una cronaca, non solo una dimensione quasi giornalistica dello sviluppo temporale di quei giorni, ma volevo immergere lo spettatore in un flusso che potesse sembrare quasi come se fosse una narrazione, un grande racconto, no? Una sorta di racconto orale, come a volte i nostri nonni, le vecchie generazioni ci passavano col loro vissuto, no? Con la loro voce diretta. Ecco, in questo senso volevo che ci fosse la forza e la solidità di una cronaca, e quindi i sette giorni che andavano sgranandosi ora dopo ora, dal malore fino ai funerali, e questo flusso di immagini, di repertorio, di fotografie, di documenti, che andavano però a creare anche un racconto emozionale, un racconto che potesse toccare più livelli, quindi non solo quello meramente intellettuale o giornalistico, ma anche quello più profondamente emotivo, personale, privato, perché ovviamente in quella fine, in quelle giornate si mescolano, no, più livelli, cioè livello personale, livello privato della famiglia di Berlinguer, come di tutte le famiglie che in Italia in quel momento vivevano quella drammatica pagina del paese, e al contempo c'era un lutto, una fine, un dolore che era più collettivo, più pubblico. Ecco, in questo senso mi sembrava importante tenere insieme i due linguaggi, quindi da una parte la cronaca, la ricostruzione cronachistica di quelle giornate, e dall'altra un flusso emotivo di immagini, di sensazioni, di parole che andavano a ricostruire appunto il tessuto più personale, più emotivo, più profondo di quel dolore. Che distribuzione sarà? In quante sale? Qui abbiamo fatto un progetto che per noi è un salto di qualità importante, con cui parlo più da produttore, come produzione, perché abbiamo l'anteprima biografica a Bologna, e il giovedì 13 usciamo in sala in tutta Italia con OpenDDB Distribuzione dal Basso, che è una distribuzione con cui abbiamo iniziato, io la conosco da lungo tempo, ma è la prima volta che costruiamo una collaborazione così approfondita, e devo dire è un po' anche mettere insieme visioni che sono molto simili, molto consonanti. Entrambi crediamo nel valore proprio delle comunità, delle reti, appunto quella parola dal basso, no? Allora abbiamo cercato di costruire un percorso distributivo che potesse andare incontro alle persone, diffuso sui territori, molto legato ovviamente al mondo appunto delle reti, delle associazioni, dei soggetti che poi in parte hanno accompagnato il film, e siamo in quasi, in questa prima settimana sfioriamo le 50 date, e quindi da qui in avanti ovviamente poi penso che non si possa far altro che crescere, ma già in questi primi 10 giorni essere in 50 sale in altrettanti territori italiani, facciamo tutte le più grandi città, molte città in provincia, insomma è un progetto distributivo diffuso che mi sembra anche racconti molto del film stesso e dei suoi valori. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Entrambi i siti, sia quello di Echivisivi ma soprattutto quello di OpenDDB Distribuzione dal Basso, segue e tiene ovviamente tutto il calendario delle date distributive del film, e in più dal sito stesso di OpenDDB si può accedere ai vari cinema che hanno già in prevendita ovviamente tutti i biglietti, e in più ovviamente i social, tutto un po' la dimensione produttiva del film, appunto Echivisivi, Salice Production, Solaria Film, OpenDDB appunto seguono in modo massivo tutto il percorso del film. Il documentario Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, al cinema da giovedì 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Samuele Rossi. A presto! Grazie mille Federico! Pietro Liberati di Trent Film per presentare i film Attenberg e Chevalier di Atina Rachel Zangari al cinema il primo giovedì 13 giugno e Chevalier giovedì 20 giugno 2024. Ben trovato. Grazie, ben trovati anche ai radioascoltatori. Raccontiamo di questi due film. Innanzitutto questi due film compongono il capitolo finale di una nostra retrospettiva su quello che è stata l'onda del cinema greco del decennio 2010-2020. Noi abbiamo cominciato questa retrospettiva con l'intento di mettere un occhio di bue su questo cinema che al di fuori di Lantimos in Italia si conosce abbastanza poco, e così abbiamo cercato di delineare una serie di tappe evolutive di questa wave, della Greek Weird Wave cosiddetta, attraverso una serie di autori che prima in Italia erano o sconosciuti o comunque poco noti, magari visti solamente nell'ambito di festival. Il capitolo finale è appunto questo dittico di film entrambi di Akina Rachel Zangari. Attenberg è appunto in uscita il 13 giugno, è un film che è stato in competizione al Festival di Venezia nel 2010, dove ha vinto nel concorso ufficiale, nel concorso Venezia 67, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile per la protagonista Ariane Labed, ed è uno dei film da cui tutto è partito per quello che riguarda questa wave. E il secondo film, Chevalier, è un film che è sceneggiato da Eftimis Filippou, a lungo braccio destro di Lanthimos, ha scritto anche il suo ultimo film, che è nelle sale adesso, Prince of Kindness, ed è un film totalmente diverso da tutti gli altri che lui ha scritto, ed è anche una delle poche commedie pure che rientri in questa wave. Attenberg è praticamente la storia della maturazione di una ragazza 23enne marina che si trova spaesata di fronte a un mondo che non capisce, mentre Chevalier racconta di un contest su uno yacht di lusso al largo del Mare Egeo, dove sei amici o presunti tali si sfidano nei campi più diversi per stabilire quale sia il migliore tra loro. Di questa regista cosa sappiamo? Akina Rachel Zangari è molto attiva anche come produttrice, infatti ha prodotto proprio i primissimi film di Lanthimos, tra gli altri, ha prodotto sia Kinetta che l'arcinoto Dogtooth, Kinodontas. Inoltre ha avuto un passato anche di studi e di collaborazioni negli Stati Uniti, prima delle quali è stata con il regista americano indipendente Richard Linklater. Infatti compariva tra gli interpreti di Slacker, che è un cult dei primissimi anni 90 di Richard Linklater, dovrebbe essere il suo lungometraggio d'esordio. Dopodiché ha continuato a lavorare con lo stesso Linklater anche successivamente, ad esempio con uno dei tre titoli della trilogia con Ethan Hawke e Julie Delphi, iniziata con Prima dell'Alba, che era parzialmente girato in Grecia. Lì figura come coproduttrice. Cosa apprezzi della sua cinematografia? La cosa affascinante dello stile della Greek Weird Wave è che all'interno di personalità autoriali anche molto diverse c'è chi è più o meno serio nell'approccio alle storie e al loro racconto. Sembra esserci un tessuto comune. Andando a conversare con i registi greci, loro ti diranno che la Greek Weird Wave non esiste, però il fatto che ognuno di loro sia presente sul set degli altri, magari dia un apporto proprio, dia un'idea, dia un input, questo è andato a creare nel corso del tempo un sottotesto, un tessuto connettivo che attraversa tutti i film di questa wave. Questo sguardo che è un po' sardonico, un po' ironico, un po' amaro e un po' femminista di Akina Rachel Zangari è assolutamente il suo marchio precipuo, appartiene solo a lei. È interessante vedere come si contamini Chevalier con l'umorismo tipico di Eftimis Filippou, che è un umorismo nero, acre, che può anche disturbare alle volte, come magari in qualche titolo che anche noi abbiamo distribuito come Miserere. E per una volta in Chevalier è veramente ironia pura. Che distribuzione sarà per questi due film? Le date di uscita sono puramente indicative del fatto che questi film saranno disponibili da, perché Attenberg in 14 anni non è mai uscito sul grande schermo e quindi noi abbiamo il privilegio di essere i primi a mostrarlo sul grande schermo in Italia. E Chevalier stessa cosa, in 9 anni nessuno l'ha mai mostrato sul grande schermo, eppure sono dei film intanto molto premiati a livello internazionale, europeo e non solo. Chevalier addirittura è stato designato dalla Grecia agli Oscar. Diciamo che da queste date noi li rendiamo disponibili e cercheremo di farli circuitare il più possibile anche associati agli altri titoli che abbiamo distribuito in passato. Gli altri titoli del passato sono due film di Babis Makridis, L, un uomo, un auto, un barattolo di miele, e Miserere, che adesso sono disponibili anche in VOD, e Shantan di Argiris Papadimitropoulos, che abbiamo distribuito anche con un buon riscontro di pubblico lo scorso luglio, e anch'esso è disponibile in VOD, e infine qualche mese fa dopo l'esplosione in Italia di Povere Creature, abbiamo distribuito il corto di Yorgos Lanthimos Nimic, e idealmente in una linea temporale che attraversa tutto l'arco degli anni 10 potrebbe andare a chiudere questo decennio, visto che un cortometraggio del 2019 girato con la star americana Matt Dillon, ma che comunque è un film pienamente di Greek Weird Wave, sia nel tema che nello svolgimento. Non a caso anche molto vicino a Kinds of Kindness, che sta girando in questo periodo in giro per l'Italia. Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere dove vederli? Sì, allora potete seguire i nostri social su Facebook /trendfilmit. E anche il nostro account Instagram è identico, trendfilmit. Il nostro sito è www.trendfilm.it. Il dittico della regista Atina Rachel Sangari, Attenberg al cinema da giovedì 13 giugno e Chevalier al cinema da giovedì 20 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trend Film che li distribuisce. A presto! A presto, grazie Federico e grazie a voi. Con il musicista Massimo Zamboni per presentare il documentario Arrivederci Berlinguer di Michele Mellara e Alessandro Rossi al cinema da lunedì 10 giugno 2024. Ben trovato! Ben trovati, sono molto contento di poter parlare di questo film, di questa persona e anche riferirlo al momento attuale, credo che ci sia molta materia. Com'è stato il tuo incontro con questo lavoro? È stato un incontro abbastanza fulminante perché stavamo lavorando alla mostra sui CCCP a Reggio Emilia, quindi non c'era veramente neanche un minuto libero. Però la proposta che mi è arrivata da Pordenone Docs Festival è stata di quelle che non puoi rifiutare, nel senso che pensare di doversi confrontare con i funerali di una persona così importante non solo per l'Italia ma anche per me personalmente come Berlinguer a 40 anni dalla sua scomparsa era un appuntamento col pensiero che non potevo mancare, quindi ho trovato il modo di buttarmi sulla colonna sonora e di partecipare alla costruzione del film. Come hai proceduto? Per via emozionale, nel senso che ho proceduto anche a fatica perché tante volte mi sono dovuto fermare e asciugare qualche lacrima che veniva fuori da sola, perché è così forte la presenza di quell'uomo, ma ancora di più il ruolo e il compito che gli viene attribuito dai 1,5 milioni di persone che erano presenti ai funerali e gli altrettanti milioni che non erano potuti andare, che insomma la commozione ti prende veramente in maniera molto forte. E ho pensato di cominciare in maniera acustica, in modo da portarlo verso un piano fuori dalla sfera della politica stretta, non fuori dalla ragione in qualche modo, non volevo un approccio razionale. E poi pian piano arrivare con le chitarre elettriche, con questa lunga suite finale che dura più di 10 minuti, composta da 3 movimenti, da una canzone, per dare conto, questo è molto forte perché è nel silenzio delle immagini, quindi è soltanto musica, è un fatto molto inconsueto per un documentario, e la cosa che mi premeva molto fare era cercare le parole per dirlo. Non è assolutamente semplice pensare parole con le quali commentare i funerali di Berlinguer, perché devi rendere conto a quei milioni di persone che hanno partecipato e non puoi farli in maniera artistica, devi essere veramente parte di quel momento. E quindi ho cercato di coprire più che potevo le immagini di Berlinguer a Padova nei giorni che hanno preceduto la morte, perché le trovavo intollerabili se mostrate di per sé, quando invece con una canzone, con delle parole, acquista un altro significato. Insomma, la sofferenza è molto presente, ma in qualche modo viene portata dentro l'ascoltatore, non guardi il sacrificio di una persona. E l'ultima canzone, che è un canto di ringraziamento, perché se dovessi restringere in 2 parole quello che avrei voluto dire a Berlinguer, era il titolo della canzone, Dirti grazie. Hai scritto un libro, La Trionferà, che è un'autobiografia in cui parli di una realtà sociale e politica in cui sei cresciuto, insomma, e volevo chiederti in che rapporto sei con questa figura? La Trion Ferrari è un'autobiografia di tutta l'Italia, credo, nel senso che comprende anche me, come ha compreso milioni e milioni di persone, della storia del Partito Comunista in un luogo come la provincia di Reggio Emilia, fortemente comunista. Ancora oggi le elezioni sono state vinte con il 70%, l'83% in alcuni piccoli comuni della pianura. Berlinguer è stato il segretario del PC quando io mi sono iscritto nel lontanissimo 1975 ed è una figura che è sempre rimasta altissima, non è mai scesa la stima e l'attenzione, anche se il 1977 la contestazione a Bologna, di sentirsi chiamare un Torelli, insomma, di sentire parole come compromesso storico che a 18 anni fai fatica ad accettarle, in realtà il senno di poi te le fa accettare pienamente. Però è sempre rimasto un riferimento assoluto e anche negli anni successivi rileggere il suo pensiero credo che sia una guida. Per questo il film si chiama Arrivederci Berlinguer, non addio, perché è un guardare lontano. L'opera di Mellara e Rossi, che cosa ti ha suscitato vedere quelle immagini? Sono difficili da sostenere. Sono difficili perché vedi questi milioni di persone che è un'Italia scomparsa rispetto a noi oggi. Già Pasolini allora rivendicava la mutazione antropologica, ma 40 anni dopo quella mutazione è fragorosa anche rispetto ai protagonisti del film. Sono contadini, sono operai, sono figure che sono quasi completamente scomparse dal nostro rappresentarci, no? Perché esistono ma nessuno le vuole far esistere. E sentire chiamare Berlinguer padre o maestro o guida è molto forte, perché sono parole che non si usano più per i segretari politici. Forse non esistono neanche più i segretari politici. C'è una serie di attori o giocolieri, ma siamo a un altro livello. Come accompagnerai il film? Il film l'abbiamo portato dal vivo in una serie di occasioni, in trio, con un'altra chitarra elettrica e con una tastiera. E poi finalmente è diventato un vero film, nel senso che può girare anche senza la nostra presenza musicante. E di questo sono molto felice, perché credo che possa avere un buon destino questo film. Non sto parlando di termini commerciali, ma proprio di capacità di incidere sugli spettatori. Quindi io lo accompagno con molti auguri, perché spero veramente che venga visto da tantissime persone, perché c'è veramente bisogno, indipendentemente dall'ideologia, veramente bisogno di figure di questo tipo e di ricordare che possono esistere figure di questo tipo, perché questo è il dato clamoroso, che questo sia successo davvero. Il documentario Arrivederci Berlinguer di Michele Mellara e Alessandro Rossi al cinema da lunedì 10 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al musicista Massimo Zamboni. Un abbraccio, a presto! Grazie, grazie a tutti voi, un abbraccio davvero. Con Fabrizio Nardocci, regista del film La Tartaruga, al cinema da giovedì 6 giugno 2024, ben trovato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Che racconto è il tuo film? La Tartaruga nasce da un soggetto di Maurizio Bondi e insieme volevamo raccontare una storia di sentimenti e di bisogni profondi tra due persone mature. E in questo caso abbiamo scelto come protagonisti Nello Mascia e Antonello Passari. Come nasce il progetto di film? L'idea era quella di raccontare appunto una storia di un uomo che deve per varie vicissitudini lasciare la casa al figlio e quindi rimane senza una dimora. E l'incontro con questo vecchio amico è un aiuto reciproco per entrambi, l'uno bisognoso di una casa, l'altro invece della vicinanza, dell'affetto della persona che ha sempre amato nella sua vita. Ed è proprio infatti su questo che il titolo, La Tartaruga, abbiamo scelto questo animale proprio perché simboleggia la tenacia, è uno dei le attitudini che vengono date a questo animale. Come hai lavorato sulla sceneggiatura di Ponzi? Abbiamo lavorato insieme, è il secondo film che scriviamo insieme, io e Maurizio Ponzi. Il primo, Vado e Vengo, è uscito nel periodo della pandemia, quindi i cinema erano chiusi, infatti abbiamo avuto il debutto su Sky. Mentre invece questa volta finalmente esco con un film al cinema, e infatti sono molto emozionato per questa cosa. Con Maurizio ci siamo incontrati per vari mesi per scrivere questa storia. È una storia molto concentrata su dei dialoghi profondi, maturi, delle volte anche divertenti, infatti nel film si ride anche, ecco. Com'è stata la scelta e il lavoro con gli attori? Antonello Fassari è un attore che ha già aveva lavorato con me nel film precedente, mentre invece per quanto riguarda la scelta di Nello Mascia siamo arrivati a lui dopo aver avuto idea di altri attori, ma secondo noi Nello Mascia era l'artista che più poteva rispecchiare il personaggio che poi va ad interpretare Bruno. È un attore con varie sfaccettature, dal comico, dalla commedia al drammatico, e quindi devo dire che la coppia poi Antonello Fassari e Nello Mascia insieme hanno dato proprio uno slancio maggiore, un'importanza maggiore a questo film. E poi c'è la presenza di Anna Ferruzzo, che è un po' il momento più allegorico, più piacevole del film. Anna Ferruzzo rappresenta un po' nel film quella che vuole scoprire le carte subito, vuole capire subito che cosa c'è tra i due. Anche con lei avevo lavorato nel precedente film, riconfermata. Ovviamente quando poi lavori con delle attrici così brave, così importanti, poi vorresti lavorarci sempre, anche per film futuri, ecco. Rispetto alla sceneggiatura, su quali elementi avete voluto concentrarvi? Siamo concentrati molto su questo viaggio che fanno anche i personaggi. È un viaggio verso una rottura di schemi ai quali non siamo abituati a vedere né sul grande schermo né in TV, proprio per la tematica che volevamo raccontare. Un viaggio verso appunto una rottura di schemi. Il sentimento di Marcello verso Bruno non è incasellabile, non è proprio essere proprio vissuto in età giovane e adesso all'età di 70 anni ancora di più. Ma qualcosa di diverso, diciamo, trova la necessità di essere vissuta tra i due. Sappiamo che non evolverà in una storia d'amore, ma comunque in un incontro di due persone, l'uno bisognoso di una casa, l'altro di una vicinanza della persona, quindi si parla un po' di tra la malinconia, dello stare da soli, e invece l'obiettivo è la vicinanza di qualcuno, quindi lo stare insieme a qualcuno, anche in un momento della vita in cui appunto è facile rimanere da soli. Che distribuzione è? La distribuzione è Luce Cinecittà. Siamo usciti appunto il 6 giugno, intorno a 27-28 sale in tutta Italia. Abbiamo fatto la prima a Roma, saremo a Latina e poi a Catania per la presentazione. Sono molto contento perché il pubblico sta rispondendo bene al film. Per ora solo recensioni positive. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Potete seguirmi su Instagram, Fabrizio Nardocci, su Facebook, oppure c'è il sito della produzione, dalexfilm.it, dove potete vedere dove viene proiettato il film e anche per vedere anche i lavori futuri, ecco. Il film La Tartaruga al cinema da giovedì 6 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Nardocci. A presto! Grazie a voi. Giorgia Marchetti di Notorious Pictures sulla versione restaurata del film Donnie Darko di Richard Kelly al cinema da lunedì 3 giugno 2024. Ben trovata. Ciao a tutti, grazie mille. L'idea del restauro, come nasce questo progetto? Il progetto nasce perché in Italia 20 anni fa usciva Donnie Darko per la prima volta. Oltretutto quando uscì non fu successo come poi è diventato nel corso del tempo, amato veramente da qualsiasi generazione, e per questa occasione appunto per i suoi 20 anni abbiamo deciso di riportarlo al cinema in una versione che sul grande schermo non è mai uscita. Siamo molto felici perché già sta avendo molto molto successo questa riedizione. Cosa avevi apprezzato di questo lavoro? Essendo uscito così tanto tempo fa, la prima volta che l'ho visto ero veramente, veramente piccola. Infatti mi ricordavo poco, l'ho rivisto anche recentemente, poi l'ho rivisto appunto in questa nuova versione. Ho apprezzato la visione del regista, soprattutto un po' lui ha iniziato a portare in quel periodo questo tema del viaggio nel tempo che negli ultimi 10 anni sta tornando fortissimo. In realtà era tutta una tematica che già era partita tanto tempo fa, che era quindi molto forte, con anche il Ritorno al Futuro, ma già con Donnie Darko se ne parlava molto. E ovviamente il cast, un grandissimo cast con Jake Gyllenhaal. Insomma, è un film visionario che ha aperto tanti pensieri, un mondo, tante porte anche a film che poi sono usciti appunto negli ultimi decenni. Che operazione di restauro è stata? Si tratta della Director's Cut restaurata in 4K, quindi quando un film esce al cinema viene fatto un cut, il primo è quello del regista, che quasi mai viene poi portato al cinema, in realtà poi sono i produttori per di più che portano poi il cut che esce effettivamente nelle sale. Per il 15° anniversario per l'uscita del DVD fu fatta appunto la versione del regista, la Director's Cut, uscita appunto in Blu-ray in 4K, e appunto per il 20° anniversario abbiamo deciso di portarla al cinema per la prima volta, perché non è mai uscita sul grande schermo, soprattutto in 4K, cosa che 20 anni fa non era così, e quindi è proprio una versione che chi non ha il DVD non ha mai visto e soprattutto non ha visto al cinema, ed è proprio questa la chiave che sta proprio facendo creare tanto hype intorno a questa re-release. Che uscita sarà? Sarà un'uscita evento di 3 giorni, 3, 4 e 5 giugno, ma abbiamo visto che sta avendo appunto molto successo e molte sale cinematografiche e circuiti ci stanno chiedendo di tenerlo anche dopo, tant'è che alcuni cinema avranno anche la programmazione anche nei giorni seguenti, nel weekend, e pian piano infatti si sta allargando questa cosa, ma è effettivamente un evento, non come un'uscita solita, però insomma probabilmente poi proseguirà anche per il weekend. Al momento quante sono le sale? Siamo quasi a 250 sale, il che per un evento è veramente in linea con gli eventi che sono andati benissimo negli ultimi mesi, e in realtà continuano ad aumentare, per cui molto molto bene per essere un film uscito diversi anni fa alla fine. La sua vita poi proseguirà sulle piattaforme? In questo momento è possibile noleggiarlo, per cui già è in rent, e probabilmente potremmo magari provare qualcosa, un'altra finestra, però per adesso noi ci focalizziamo sicuramente sul cinema. Tutti i riferimenti web per sapere le sale che lo programmeranno? Tutti i riferimenti li potete trovare su questo Notorious e sul cinema più vicino. A presto! A presto, grazie a tutti, ciao! Giorgia Marchetti di Notorious Pictures sulla versione restaurata del film Donnie Darko di Richard Kelly al cinema da lunedì 3 giugno 2024. Con Federico Savonitto e Ruben Monterosso per presentare il loro documentario Il Piano Segreto. Bentrovati! Buongiorno. Grazie, buongiorno. Di cosa parla questo lavoro? Il film racconta ciò che ancora vive del teatro di Michele Perriera, che è stato un grande drammaturgo palermitano, non ancora abbastanza conosciuto, che è stato un grande maestro per molti autori, registi ed attori teatrali, tra cui per esempio Emma Dante, che è una delle protagoniste del film, ed anche Letizia Battaglia, che per quanto fotografa aveva fatto la scuola Teatess fondata da Michele Perriera, che era appunto una scuola di regia e recitazione teatrale. Tra i protagonisti ci sono anche i due figli di Michele Perriera, che tengono appunto in vita i testi del padre, e anche una compagnia teatrale torinese, la compagnia genovese Beltramo, che poi durante le riprese del film hanno dovuto subire un'interruzione della messa in scena di uno spettacolo di Perriera che parlava di una pandemia futura e che appunto ha dovuto confrontarsi con una pandemia che davvero arrivava nella realtà, come tutti ben sappiamo, nel 2020. Come nasce questo progetto? Molti anni fa, quando io e Federico stavamo affrontando un altro autore, anch'esso poco conosciuto, adesso un po' più conosciuto, forse anche grazie al nostro lavoro, che è Nino Gennaro, con il lavoro La fine che non ho fatto, e già lì, in quegli anni, avevamo incontrato più volte la figura di Michele Perriera. E sicuramente ci ha colpito moltissimo la lettura di alcuni suoi testi, che poi in realtà, man mano che andavamo studiando, riuscivamo a rintracciare quei stessi testi nei testi della realtà che ci circondava. Appunto Federico poco fa aveva parlato della pandemia, ma non solo, anche della guerra, e quindi anche di tutto il disequilibrio socio-economico e ambientale che oggi è una realtà e che Michele in qualche modo aveva previsto già diversi decenni fa. E quindi nasce anche dalle esigenze di raccontare un po' il presente. Come lo avete strutturato? seguendo contemporaneamente le linee narrative legate appunto alle persone di cui abbiamo un po' parlato, che sono i protagonisti del film viventi, attuali, e puntellando insomma il presente di un documentario d'osservazione e creazione con dei momenti in cui invece la parola di Perriera, attraverso la voce di Umberto Cantone, arrivavano a in qualche modo creare un contrappunto tra la realtà e le parole appunto di Michele Perriera dette a partire dal 63, perché Michele Perriera aveva anche fatto parte del gruppo 63 fino al 2010, anno della sua morte. Che ritratto ne viene fuori? Sicuramente viene fuori un autore complesso, articolato, stratificato. Sicuramente il nostro documentario non è un documentario biografico, perché appunto la figura di Michele Perriera è veramente complessa e ha una grandissima produzione drammaturgica e letteraria, quindi abbiamo scelto di intraprendere un po' appunto la sua visione più distopica all'epoca, perché oggi possiamo dire che non è più così, perché la stiamo appunto, come dicevo prima, vivendo, e quindi abbiamo cercato di rendere un po' questa sua complessità attraverso appunto i movimenti, le azioni, le parole dei personaggi di cui parlava Federico, che sono i nostri protagonisti e che riverbera appunto nel presente. Che sì. Tipo di distribuzione, insomma, in quante sale sarà? L'anteprima al Biografilm Festival il 12 di giugno a Bologna, dopodiché ci saranno delle proiezioni in Sicilia, all'Ortigia Film Festival, a Palermo, all'interno della Rassegna Cinema City, poi anche a Marsala, e questa sarà la nostra prima presentazione estiva del film, dopodiché andremo sicuramente in sala nelle principali città italiane a partire dall'autunno. Ci date tutti i riferimenti internet per saperne di più? La casa di produzione Zabriskie. Ci sono le pagine di Instagram, Piano Segreto, che diceva Federico, le pagine sicuramente anche nostre personali, mie, di Federico. La pagina di Zabriskie, appunto, che si occupa, esatto, di far uscire tutti i vari articoli e anche, insomma, stiamo facendo uscire delle clip del film, a breve uscirà anche il trailer, tutto sulla pagina di Zabriskie, sì. Il documentario Il Piano Segreto. Un saluto e un ringraziamento ai registi Federico Savonitto e Ruben Monterosso. A presto! Grazie, grazie a presto, tanto, a presto, grazie a voi. Ciao. Con Massimo Arcangeli di Anec Lazio per presentare le arene estive Notti di Cinema a Piazza Vittorio dal 15 giugno al 15 settembre 2024 e il Cine Village Monteverde dal 15 giugno all'8 settembre 2024. Ben trovato! Ciao, buongiorno a tutti. Io ci aggiungerei anche quello di Pila Lazzaroni. Quest'anno facciamo un evento in più dal 15 giugno fino al 15 settembre. Saremo anche lì nel quartiere d'Appio Latino. Quindi tre appuntamenti per gli amanti del cinema. Quello storico di Piazza Vittorio, che sarà caratterizzato da cinema, ma grandi eventi, incontri, appuntamenti con i protagonisti del mondo del cinema. Largo Ravizza, che quest'anno sarà un evento particolare perché ascolteremo il cinema in cuffia, proprio per evitare i fastidi che in qualche circostanza il cinema può aver determinato. Ci sarà questa possibilità di riscontrare con le cuffie tutta la magia del cinema dal punto di vista sonoro. Saranno consegnate, restituite, igienizzate con la massima attenzione nei confronti del pubblico. Pila Lazzaroni, lì cominceremo dal 13 a fine giugno con un grande festival jazz e poi a seguire il grande cinema in un'arena di 600 posti in uno dei quartieri più popolati della città fino al 15 di settembre. Come si caratterizzano le tre diverse arene? La particolarità quest'anno sarà proprio il cinema in cuffia, è un'operazione su cui abbiamo lavorato molto in questi mesi, isolerà lo spettatore da tutti i rumori di fondo e ci consentirà di poter vedere ed ascoltare il cinema alla condizione ottimale per cui quell'opera è stata realizzata. Com'è stata la scelta delle opere che presenterete? Fondamentalmente il grande cinema italiano che è stato caratterizzato in questa stagione, anche quest'anno ci sarà l'iniziativa Cinema Revolution, quindi con 3,50 euro si potrà assistere a tutte le proiezioni in tutte e tre le arene. quest'anno abbiamo messo in piedi anche una formula eccezionale, perché noi in parallelo adesso stiamo lavorando nel portare a Roma il Festival di Cannes appena concluso, sì, quindi 20 titoli tra i più importanti e significativi, e poi presenteremo anche il Festival di Venezia. Questa formula abbonamento Vivi Spettacolo, che è stata realizzata quest'anno, consentirà a tutti gli spettatori, a tutti gli amanti del cinema, di acquistare questo abbonamento con soli 40 euro e poter accedere in tutte le proiezioni delle arene e in quelle di Cannes a Roma e di Venezia a Roma liberamente con soli 40 euro. In qualche caso è prevista anche la presenza di autori e autrici? Sempre. Noi rappresentiamo il cinema e chiediamo ai protagonisti del mondo del cinema di dare un aiuto per far ritornare il piacere di vedere il cinema sul grande schermo. Ci saranno tutta una serie di appuntamenti e di incontri e devo dire che tutti i protagonisti, attori, registi, si sono resi disponibili per venire a presentare i loro film nelle nostre arene. Sono previsti anche eventi collaterali insieme al film? Sì, all'interno di Largo Ravizza c'è una sezione che si chiama Libri e Spritz, seguita e coordinata dal direttore Daniele Pozzi, che presenterà con gli autori i libri attenti a quella che è l'editoria di questo periodo. E poi ci saranno in tutti le nostre arene dei momenti conviviali di accompagnamento musicali con DJ set o musicisti che prima della proiezione del film renderanno gradevole trascorrere al fresco nelle nostre arene. Le proiezioni saranno quotidiane per le tre arene? Sì, saranno quotidiane e in più quest'anno abbiamo dedicato un'attenzione particolare ai portatori di handicap sonori. Con Movie Reading i ciechi e i sordi potranno assistere alle proiezioni di alcuni film che sono stati realizzati proprio per poter concedere anche a questi portatori di handicap la possibilità di poter assistere alle opere che noi presenteremo. Per seguire il programma ci dai tutti i riferimenti internet? Cinevillage.it, trovate tutte le informazioni dei nostri tre Cinevillage presenti quest'anno a Roma. www.cinevillage.it. Notti di cinema a Piazza Vittorio, Cinevillage Monteverde e Villa Lazzaroni dal 15 giugno al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Arcangeli di ANEC Lazio. A grazie, presto. Vi aspettiamo. Buona giornata. Con Luigi Pingitore, regista del film Iago Into the White, al cinema il 18 e 19 giugno 2024, ben trovato. Grazie, ben trovati. Cosa racconta il tuo lavoro? Come per tutti i registi, la cosa più complicata è parlare del proprio film, no? Che cosa racconta? Perché uno spera sempre di aver messo tutto all'interno di quello che ha fatto. Diciamo questo, è un piccolissimo film, piccolissimo nella misura in cui è un lavoro indipendente, che però racconta una cosa enorme, grandissima. E questa cosa grandissima è l'ossessione. Io a mia volta sono sempre stato ossessionato dagli uomini ossessionati, dalle persone che inseguono attraverso le proprie ossessioni qualche cosa che sta molto più avanti della normalità. E quindi quando ho incontrato Iago e ho conosciuto la sua incredibile ambizione, il suo talento, ho pensato che fosse perfetto per questo progetto. E quindi ho cominciato a seguirlo, ho cominciato a dare forma a quello che io definisco come un anti-biopic. Questo non è quindi un biopic tradizionale, ma è un anti-biopic. Qual è l'ossessione di Iago? Probabilmente le grandi ossessioni non vengono mai realmente conosciute neanche dalle persone che le possiedono, nel senso che questo lavoro che lui fa sul marmo, questo suo bisogno di esplorare la comunicazione, questa sua capacità di essere con un piede molto antico, rinascimentale, ma con l'altro piede molto nella modernità, nella comunicazione di oggi, ne fanno un personaggio insolito, sfuggente. Quello che lui insegue io non l'ho ancora capito, ed è stato poi l'anima che mi ha permesso di fare questo film, perché essendo davanti a me come un mistero, mi ponevo continuamente nella condizione, avevo continuamente la tensione per cercare di capirlo. Com'è partito tutto? Avevo conosciuto Iago nel 2019 perché ho realizzato per Rai 5 un documentario, mi ero già occupato di lavori dedicati ad artisti, per Art Night di Rai 5. L'avevo conosciuto in quell'occasione, avevo fatto un lavoro chiamato Millennials, su tre giovani artisti dell'età dei Millennials, e mi aveva molto colpito il suo modo di lavorare, perché credo che lo ascolti scrittura abbia delle caratteristiche filmiche molto interessanti, perché sì, un gesto creativo, quindi un gesto interiore, ma tutto portato all'esterno. Quindi mi è subito venuto in mente che potesse essere qualche cosa a cui dedicare uno spazio più grande. E poi le coincidenze della vita, come sempre, hanno il ruolo principale. Lui, a causa della pandemia, si è trasferito da New York a Napoli, ci siamo quindi risentiti e abbiamo deciso di dar vita a questo lavoro. Come hai proceduto? Come è stato strutturarlo? Come ho detto al mio montatore, io a un certo punto ho capito che questo film assomigliava, ed è uno dei motivi per cui l'ho definito un anti-biopic, a una sorta di incontro di pugilato. Mi è parso che Iago, in quel laboratorio in cui lavorava, nel suo studio, che poi è una chiesa che si trova all'inizio del Rione Sanità a Napoli, una meravigliosa chiesa abbandonata, messo da solo di fronte a quel blocco di marmo, mi ha ricordato il pugile di fronte all'avversario. E così come il pugile, ripresa dopo ripresa, tenta di vincere la sua competizione, di mandare al tappeto l'avversario per risultare vincitore, mi è sembrato che Iago, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, intraprendesse quella che è una vera e propria competizione con il marmo. C'era dell'agonismo, dell'animalità, quello che io vedevo in lui. E questa cosa era molto interessante, vederlo all'improvviso saltare sopra il marmo, girargli attorno, ferirsi con le nocche della mano perché dava delle martellate troppo incisive. Quindi a un certo punto ho licenziato la troupe, perché ho capito che era un lavoro che non poteva essere fatto in maniera tradizionale, e mi sono messo a fare con lui quello che lui faceva col marmo, cioè un mio corpo a corpo, per cercare, come ho detto prima, di risolvere il mistero. Chi è Iago? Che ne viene fuori? Sicuramente quello che ho detto prima, un anti-biopic, perché al contrario dei biopic tradizionali in cui si celebra la vita di un grande artista arrivato alla fine della propria carriera, io ho raccontato un artista all'inizio della sua carriera, quindi non c'era modo di voltarsi all'indietro e guardare il già fatto, bisognava sognare, immaginare insieme quello che si sarebbe fatto. E questo era molto emozionante. In più, non credo che sia un'apologia di Iago, né una biografia esegetica per raccontare la sua bellezza, la sua magnificenza. È proprio un ritratto molto intimo di come un artista oggi, con capacità, con ambizione, con altri momenti di sconforto, si pone di fronte al gesto forse più antico dell'umanità, che è quello che è l'atto creativo. Quindi quello che spero che venga fuori è contemporaneamente sia la storia di Iago, ma anche la storia di qualunque artista che dedica la gran parte delle proprie energie e del proprio tempo a fare arte. Per te che esperienza è stata? Devastante. Proprio per questa cosa di dover lavorare tutto da solo, meravigliosa, emozionante, difficile, molto ma molto didattica. Mi ha insegnato tante cose anche su di me, sui miei limiti. Mi rendevo conto che più Iago toglieva marmo dal blocco per arrivare a creare la sua forma, più io toglievo delle cose dalla mia presunzione, dal mio credere di aver capito come fare questo lavoro, e mi sentivo messo a nudo. Quindi è stata un'esperienza totalizzante, in cui la parte più bella è aver realizzato un documentario atipico, perché non ci sono interviste, ecco perché lo definisco un film. Quindi è uno script, perché è uno script come genere, però a suo modo insolito, perché appunto ha tentato una strada nuova per raccontare un personaggio, non affidandosi alla sua narrazione, ma cercando di seguire nel flusso delle cose che fa. Che distribuzione avete escogitato? Abbiamo avuto la fortuna di incrociare un grande partner nazionale come Nexo, che ci ha garantito la distribuzione nazionale. Devo dire che siamo oltre le nostre più rosee prospettive, perché noi saremo in oltre 130 sale in tutta Italia, 18 e 19 giugno. Quindi in queste due giornate c'è un grande evento. E poi sulla nostra strada soprattutto è capitato il Tribeca. Io avevo provato, quando è finito il film, a inviarlo anche a due festival in Italia, ma non abbiamo avuto possibilità, non c'è stata un'accoglienza. E invece il Tribeca si è messo a disposizione, ha creduto molto nel lavoro, ci hanno contattato, lo volevano assolutamente lì, ed è nato questa magnifica cosa. Siamo stati lì, abbiamo presentato. Posso soltanto dire che alla cena di fine film si è presentato Robert De Niro, quindi ero leggermente sconvolto. E adesso andiamo in sala con la speranza che poi faccia la strada che deve fare, che io spero che lo vedano soprattutto quegli artisti che vivono un momento di smarrimento e che possano trovare la luce della resilienza nell'osservare questo film. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? sito di Nexo Digital, che è il nostro distributore, e ovviamente i social di Iago e anche i miei, quindi io mi chiamo Luigi Pingitore, c'ho un sito.com, c'ho i miei vari social, e stiamo un po' raccontando le varie sale in cui sarà presente. Sul sito di Nexo Digital c'è la lista di tutte le sale. Noi saremo presenti il 18 a Roma al Barberini, incontreremo il pubblico, da quello che io so è già sold out, e il 19 al The Space di Napoli, dove invece c'è ancora qualche biglietto, e poi c'è in tutta Italia. Il film Iago Into the White al cinema il 18 e 19 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Luigi Pingitore. A presto! Io ringrazio voi. Arrivederci. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.